Ancora nel pieno dell'emergenza epidemiologica, alcune riflessioni su quanto sta accadendo e su quanto è accaduto, su quanto potrebbe accadere. Credo che questo sguardo sia importante. Siamo una società schiacciata sul presente e ancora una volta durante questa epidemia abbiamo subito questa presentificazione del nostro modo di vivere. Non c'è passato e non c'è futuro, non ci sono ragioni profonde, non ci sono esperienze pregresse che possono almeno in parte spiegare la situazione nella quale ci troviamo, e sembra che il futuro non ci sia, sembra che l'unico problema sia quando potremo uscire di casa o quando l'economia riprenderà, come se potesse riprendere solo d'incanto. E invece occorrerebbe un altro respiro, occorrerebbe un respiro di lungo periodo, sia nel passato sia verso il futuro. Nel passato per trovare alcuni degli elementi che ci consentono di leggere il presente e per trovare alcune analogie, alcune situazioni passate con le quali possiamo misurare questa emergenza e rispetto alle quali possiamo cercare di capire come ci si comportò allora e come ci si può comportare adesso. La progettazione del dopo, per così dire, è importantissima. Perché questa non avviene in sedi democratiche, in sedi aperte e trasparenti? Sembra quasi che questa questione venga lasciata nelle mani di chi ha l'iniziativa o di chi potrebbe averla. È singolare che un pronunciamento importante sia venuto, per esempio, da Luca di Montezemolo, un industriale, un capitano d'industria, rappresentante di quel capitalismo italiano che nel bene e nel male ha portato a questa Italia. Montezemolo parla di quattro priorità: il lavoro, la semplificazione dell'apparato pubblico, la digitalizzazione e la lotta alle diseguaglianze. Dobbiamo sentirlo dire da un industriale? E il Parlamento dov'è? E a un giornalista che intervistava Montezemolo sul Parlamento rispondeva: è un vero scandalo, un'offesa ai cittadini, il fatto che il Parlamento non si riunisca. Del dopo parlano altri industriali, per esempio Giuseppe Pasini, che è presidente di un gruppo siderurgico e presidente degli industriali di Brescia, il quale dice che sta lavorando ad un protocollo con la prefettura, l'università, la comunità medica, le organizzazioni sindacali per definire i criteri per un'apertura graduale delle industrie. Giustissimo, ma noi chiediamo: e dov'è il pubblico? E dove sono gli organi democratici, gli organi rappresentativi eletti che possano mediare? Giustissimo coinvolgere le università, la sanità e giustissimo interloquire coi sindacati. Ma tutto questo lo si può fare saltando il luogo della grande progettazione politica che è il Parlamento, che sono le assemblee elettive? In Emilia-Romagna il presidente Bonaccini ha pensato ad un gruppo per la progettazione della ripresa composto da Romano Prodi, già presidente del Consiglio dei Ministri, Patrizio Bianchi, già rettore dell'Università di Ferrara e già assessore regionale, e Enrico Giovannini, economista e già ministro. Benissimo, ma esiste anche un'assemblea legislativa eletta. Esiste anche una giunta regionale. Sarà molto importante che questi organi si avvalgano di grandi esperti, ma devono essere questi organi che si avvalgono di grandi esperti. Insomma, sembra che questa crisi epidemiologica rappresenti anche l'acme di una crisi democratica. Manca la rappresentanza. Si parla di decisioni veloci, d'accordissimo. La Costituzione prevede che si possa decidere in fretta quando è necessario, ma la nostra Costituzione non prevede lo stato d'eccezione. E comunque ci sono decisioni che devono essere prese in modo ponderato e che non sono urgentissime. In fin dei conti siamo dentro questa crisi da un paio di mesi, e in questi due mesi cosa ha fatto il Parlamento? Cosa hanno fatto i partiti? Si parla di una Cina e di una Corea che, essendo stati autoritari, hanno risolto prima e meglio la crisi epidemiologica, perché essendo autoritari hanno imposto ai cittadini il loro comportamento. Non è esattamente così. La Cina ha una tradizione di civismo, di senso di responsabilità verso la collettività, usiamo il termine che vogliamo, ma ce l'hanno da millenni, da una parte, e dall'altra parte sapevano che questa epidemia sarebbe potuta comparire. Hanno già avuto la storia della SARS, si sono già spaventati in passato, si sono già attrezzati. Ma allora, perché noi europei, perché noi italiani, che eravamo stati avvertiti del fatto che la prossima emergenza sarebbe stata un'emergenza epidemiologica di tipo virale, di tipo polmonare, perché non abbiamo rispettato le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che imponeva un piano nazionale contro le pandemie triennale e invece il nostro è vecchio di oltre 10 anni. Oggi, 6 aprile, una inchiesta di Ilvo Diamanti dimostra che il 70% degli italiani avrebbe poca o nulla fiducia nei confronti dell'Unione Europea. Per forza, se le cose stanno così, se l'Unione Europea non si esprime politicamente, è chiaro che il gioco resta nelle mani di quegli industriali e di quei singoli potenti che in questo momento possono progettare il gioco di domani, quando la pressione epidemiologica si sarà leggermente allentata e quando si potrà cominciare ad agire. C'è chi i programmi li ha già pronti o li sta progettando. Cosa aspetta a farlo la dimensione pubblica italiana? Credo che questo sia il grande nodo sul quale dobbiamo pronunciarci al più presto, perché questo è il vero pericolo. Io non credo che il pericolo sia rappresentato dalla limitazione della libertà individuale, perché la limitazione della libertà individuale può essere una forma di responsabilità alla quale si è tenuti, e questo deve essere. Ma ciò che colpisce è la mancanza di governo politico di questo senso di responsabilità e di questa autoreclusione nella quale ci troviamo, e di una semplificazione. Io non temo l'obbligo di essere chiuso in casa, temo la semplificazione per cui quando andiamo al supermercato dobbiamo tutti consumare le stesse cose, come se per tutti fosse fondamentale il pane e per pochi fosse fondamentale altro e quindi superfluo per tutti. Perché i panifici aperti e le librerie chiuse? Perché nei supermercati i banchi che vendono certi prodotti sono aperti e gli altri sono sigillati da strisce bianche e rosse che ne fanno un divieto? Nell'emergenza si può arrivare a delle semplificazioni, ma è sempre fondamentale che ci sia un luogo nel quale di queste semplificazioni si può discutere.